giorno noi acclamiamo il Re dei Re, il Signore dei Signori. Vogliamo accomodarci, vogliamo insieme considerare quello che la parola di Dio dice proprio su questo aspetto, su questa identità del nostro Dio. Lui è il Re. E vorrei partire con leggere il Salmo 47 con voi, alcuni versi del Salmo 47. Dal verso 6 dice: cantate a Dio, comincia così questo Salmo, non esattamente comincia con queste parole, però è questa una parte cruciale del Salmo dove la Chiesa, il popolo di Dio è invitato a cantare a Dio. Cantate al nostro Re, cantate, poiché Dio è Re di tutta la terra. Possiamo confessarlo insieme? Poiché Dio è Re di tutta la terra. Ancora una volta, confessalo per te stesso, per le tue circostanze, per la tua vita. Gesù è il Re di tutta la terra. Alleluia. Cantategli un inno solenne. Dio regna sui popoli. Dio siede sul suo trono santo. Alleluia. Dio è Re. Ma Dio non è un re qualunque. Dio è il Re dei Re. Lui è, in altre parti della parola c'è scritto proprio che è il Signore dei Signori, cioè Lui è l'autorità massima, suprema, non c'è nessuno che sia al di sopra di Lui. Lui è il Re in autorità su ogni uomo su questa terra, su ogni persona, su ogni leader politico, su ogni dittatore, re, presidente che ci sia. Lui è il Re. Lui è al di sopra. Non solo sugli uomini di questa terra, ma Lui è in autorità anche su ogni essere celeste, su ogni autorità, su ogni principato spirituale. Lui è il Re anche di questo. Non c'è nessuno che non sia sottomesso a Dio. E l'abbiamo cantato con questo brano, e questo brano è un inno all'unicità del nostro Re. E vorrei parlare proprio dell'unicità del Re Gesù. Noi abbiamo un Re unico, e questo Re unico ha autorità su tutti, da sempre e per sempre. Ok, questa è una differenza rispetto ad ogni altra autorità che conosciamo. Hanno un tempo limitato, hanno un inizio, hanno una fine. Lui no. Lui è un'autorità che parte dalle infinità passate e finisce, non finisce, perché nelle eternità future. Lui ha autorità su tutto, su tutti, ovunque, dovunque. Lui è Re. Io vorrei che noi ci soffermassimo sul comprendere che il Dio Re che noi celebriamo oggi è un Re diverso, è un Re unico. Il mondo ha visto tanti re, il mondo ha visto tanti troni, il mondo vede tanti leader, uomini che hanno conquistato territori, uomini che hanno costruito degli imperi, degli uomini che sono autoproclamati dei e si sono aspettati, hanno aspettato che la loro aspettativa è che tutti li venerassero quali dei, ma non erano Dio, non sono Dio. L'unico Re dei Re è il Signore Gesù, il nostro Dio, e Lui è unico non solo nella potenza e nell'autorità che ha, Lui è unico nell'umiltà e nell'amore che dimostra. E ora, se vogliamo comprendere con quale re abbiamo a che fare, chi è veramente il Re Dio, beh, dobbiamo guardare Gesù. Ed è quello che vogliamo fare insieme stamattina, guardare Gesù, perché in Colossesi, sapete, c'è scritto che Lui è l'immagine del Dio invisibile. E quindi quando noi guardiamo a Gesù comprendiamo meglio chi è il Dio Re che noi adoriamo, a cui cantiamo, a cui ci sottomettiamo. E il Re Gesù mostra umiltà in tutto quello che fa, in come Lui è venuto su questa terra. Abbiamo cantato: Dio fra gli uomini, un servo qui. Ogni gesta di Gesù sono state gesta di un servo, di un Dio che è venuto ma non ha voluto primeggiare, ma piuttosto ha voluto manifestare umiltà. E che cos'è l'umiltà? L'umiltà è la virtù di colui che vuole valorizzare altri a costo di se stesso. E sappiamo che Gesù è umile. Lo troviamo scritto in tantissime parti diverse della Bibbia. Lo troviamo nei profeti, in Zaccaria, che dice che Gesù sarebbe venuto su un puledro umile. Umile, è entrato a Gerusalemme umile, non con forza, non con violenza, umilmente è entrato a Gerusalemme, umilmente lui viene nei nostri cuori, nelle nostre vite. Lui è umile e lo dicono i Vangeli, e lo dice la lettera di Filippesi, no? Tutti conosciamo il verso nel capitolo 2 di Filippesi, che descrive l'umiltà e ripete quanto Gesù fosse stato umile, quanto lui è umile. E lui stesso ha detto di se stesso che è umile e mansueto di cuore. Con umiltà ha detto: io sono umile, nel senso che io valorizzo te, io valorizzo te, io valorizzo te a costo del mio trono, a costo dei miei diritti, a costo della mia gloria. E quindi si è spogliato di tutto, ha lasciato la gloria celeste per venire fra di noi ed essere un servo. Lui è un Dio umile. Se con la sua vita, con la sua nascita, manifesta l'umiltà, con la sua morte esprime l'amore. Il nostro Dio è un re di amore. Quando guardiamo la croce, noi comprendiamo meglio l'amore di Dio. Quando guardiamo la croce, abbiamo l'opportunità di osservare la migliore, più grande manifestazione d'amore che ci sia mai stata. Gesù viene umilmente ma con amore. Umilmente e con amore. Umilmente nelle tue vite, nella tua vita, e con amore. La mia preghiera questa mattina è che tutti noi possiamo afferrare l'amore che Dio Re ha per noi. Lui non viene per esercitare la sua autorità e costringerci a seguirlo. No, lui non si è conquistato un popolo con la forza. Avrebbe potuto farlo, aveva la forza più di ogni altra autorità mai esistita e che mai esisterà. Ma non viene con la pretesa, non viene con la violenza. E se ha conquistato le nostre vite, e se ha portato ciascuno di noi ad arrendere le nostre scelte, ha portato noi a ubbidire, a sottometterci a Lui, lo ha fatto perché prima ha conquistato i nostri cuori. Prima con il suo amore ci ha catturati e noi non abbiamo potuto fare a meno che arrenderci. E la mia preghiera questa mattina è che se tu non hai arreso ancora il tuo cuore a Gesù, tu lo possa fare, ma non perché lui ti obbliga, non perché io ti sto dicendo che lui è il re e l'autorità suprema e che un giorno comunque dovrai piegare le tue ginocchia davanti a lui, perché questo c'è scritto nella parola. No, io vengo a dirti quello che Gesù ha fatto per te, perché quello che lui ha fatto per te e per me, che oggi ci può portare a sottometterci a lui e riconoscerlo qual è re. Lui è morto al posto nostro. Questo è amore. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. C'è scritto in Geremia 53. Il castigo per cui noi oggi abbiamo pace è caduto su di lui. Noi avremmo dovuto pagare, noi avremmo dovuto essere puniti, noi meriteremmo la croce, ma il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. Lui si è sostituito a noi, cioè lui, il re di gloria, re dei re, suprema autorità, creatore del cielo e della terra, dell'universo, Dio a cui tutto era sottoposto, si è spogliato, si è fatto uomo, si è fatto servo, si è abbassato e si è abbassato al punto tale da sacrificarsi e morire per noi. Per chi? Per un buon popolo, per persone ubbidienti, per persone sottomesse, per persone che hanno dimostrato di amarlo? No, come abbiamo cantato, per chi lo ha abbandonato. Lui è morto per chi lo ha tradito. Lui è morto per chi lo ha inchiodato. Dio è morto per ciascuno di noi, nonostante le nostre colpe e i nostri peccati. Non meritiamo tanto amore, eppure l'abbiamo ottenuto, perché Lui è un re amorevole, misericordioso e pieno di grazia. Abbiamo anche cantato che Lui ha riscritto la storia dell'intera umanità, e questo è innegabile. Ogni giorno contiamo le nostre giornate, perché la storia è cambiata da quando Lui è venuto. È innegabile, la storia lo racconta. Nessun storico serio direbbe che la presenza e la venuta di Gesù non ha cambiato inevitabilmente il percorso della storia per tutta l'umanità, per chi crede e per chi non crede. La nostra civiltà, la nostra società è stata trasformata, è quella che è oggi anche in virtù della venuta di Gesù Cristo. Però non vorrei tanto sottolineare che Lui ha riscritto la storia dell'umanità. Vorrei sottolineare oggi in questo luogo, alla presenza di Cristo Gesù, che Lui riscrive la tua storia, la mia storia. Perché questo è riportare quanto Gesù ha fatto su larga scala per ognuno di noi, perché l'ha fatto per ognuno di noi. Esattamente come abbiamo cantato, ha lasciato le 99 per cercare quell'unica pecora smarrita. Lui è morto per te, Lui è morto per te, Lui è morto per me, Lui è morto per ognuno di noi individualmente ed è venuto per salvarci. Si è abbassato, si è umiliato, si è sacrificato, è morto ed è risorto. Ed è nella sua risurrezione che noi abbiamo pace. Avevamo un castigo che pendeva sul nostro capo, ma per la sua morte e per la sua risurrezione quel castigo è stato rimosso. E al posto del castigo, al posto del giudizio, noi oggi abbiamo pace. Abbiamo pace con Dio. Tu hai pace con Dio, tu puoi avere pace con Dio, perché Dio ti vede guardando a Cristo e a quello che Lui ha fatto per te. Non vede solo i tuoi peccati e le tue colpe, sì le vede, non può fare a meno che vedere le mie colpe, i miei errori, i miei peccati, la mia ribellione. Ma c'è speranza, perché vede il sangue di Gesù. Vede il prezzo che è stato pagato affinché quelle colpe, quei peccati fossero coperti. E questo noi celebriamo oggi, ma la mia domanda è: chi è il tuo re? Chi è il mio re? È veramente Cristo Gesù? Perché vedete, il nemico viene sempre puntualmente con le stesse tentazioni, con i stessi tentativi di sviare il suo popolo dalla gioia più grande. E la gioia più grande è vivere avendo un unico re, Cristo Gesù. E il nemico viene puntualmente per proporre altri re, altre soluzioni, altre autorità. Così inutile dire che il Dio diventa il Dio dei soldi, il re diventano i soldi, diventano la soluzione per tutto, sono il motivo per il quale ci alziamo la mattina, andiamo a dormire la sera, ci stanchiamo, ci sacrifichiamo, tutto è incentrato su questo. Anche quando non ci sono, non è che c'è bisogno di averli per essere ad essi sottomessi. Oppure le nostre emozioni. Quanto siamo soggetti alle nostre emozioni, su quel trono del nostro cuore, chi comanda realmente, come ci sentiamo noi, quello che proviamo noi. Su quel trono ci può essere una persona che è totalizzante nelle nostre giornate. La Bibbia chiama questa idolatria, e il mio invito questa mattina è a riconoscere il vero re, l'unicità della sua meravigliosa vita e del suo sacrificio, della sua morte, della sua risurrezione, per poi fare una scelta, per scegliere chi sarà il nostro re. Oggi il re dei re è qui, lo promette Lui. Possiamo non vederlo, ma Lui è qui. Lui è qui. Gesù è qui. E ancora una volta non viene con la forza, non viene con la violenza, non viene con la pretesa. Non ti trascinerà, non ti costringerà, ti inviterà. E lo sta facendo. Lui ti chiama, Lui ti invita, perché Lui ti ama. Ed è morto per te, per riscrivere la tua storia. E la tua storia può essere riscritta, puoi avere un futuro riscritto da Cristo Gesù, ma ci credi? Puoi camminare con il Re dei Re. E perché Lui ha conquistato il tuo cuore, puoi sottometterti a Lui in ogni tua scelta. Ed è lì che la tua vita comincia ad avere veramente senso e valore. E se questa mattina dici: sono qui e non so dove sto andando, non so dove andrò, io ho una bella notizia da darti. Gesù vuole orientare i tuoi passi presenti su questa terra, e ancora di più aprire le porte per te, per accedere alla gloria del Padre, quando morirai o quando Lui tornerà. E allora vorrei che ci alzassimo in piedi e che questo fosse un tempo di scelta, dove intimamente, personalmente, tu rispondi alla domanda: chi è il tuo Re? Non importa quante volte hai risposto a questa domanda, questo è il giorno nel quale tornare a rispondere a questa domanda è fondamentale. Perché Dio vuole riorientarci tutti al Re che merita veramente di essere sul trono del nostro cuore. E se non hai mai ricevuto Cristo Gesù, non hai mai lasciato a Lui spazio nel tuo cuore per dirgli: sì, Re della mia vita, riscrivi la mia storia, allora io vorrò pregare per te. Chiudiamo i nostri occhi. Alleluia Gesù. Che bello averti. Che bello poter contare sulla tua salvezza. Che bello poter arrendere le nostre vite, le nostre giornate, sapere che c'è un valore maggiore per ogni giorno che viviamo, e quel valore maggiore sei tu. Scoprirti, conoscerti, viverti, coinvolgerti, sottometterci a te, ubbidirti, crescere nell'essere più simili a te. Riscrivi le storie, Gesù, riscrivi le storie. Riscrivi storie questa mattina. Te ne prego. Mentre abbiamo i nostri occhi chiusi, se vuoi arrendere la tua vita a Gesù, per la prima volta vuoi dire: Gesù, entra nel mio cuore, cambia il mio futuro, riscrivi la mia storia. Vorrei tanto che fosse riscritta da capo. Arrendo a te ogni cosa, come hai fatto tu, voglio fare anch'io. Umilmente mi abbasso e prego: sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Se questo è il tuo desiderio, alza le tue mani dove ti trovi. Voglio includere nella preghiera che sto per fare ogni persona che ha le proprie mani alzate. Grazie Gesù, perché in questo luogo tu salvi, in questo luogo tu liberi, in questo luogo tu cambi storie. Io prego nel nome di Gesù affinché in questo luogo siano trasformate vite. Ancora una volta, Padre, ancora una volta noi ti diciamo: tu sei il Re, tu sei il sovrano, tu sei l'autorità alla quale noi ci sottomettiamo, e riconosciamo che non c'è migliore guida, non c'è migliore autorità su di noi se non la tua. Sia fatta la tua volontà in noi. E io prego per chi sta alzando la propria mano per la prima volta, ti sta ricevendo nel proprio cuore. Io prego: perdona i peccati, cancella la storia finora vissuta e dai a questi tuoi figli e queste tue figlie un nuovo inizio. Lo prego nel nome di Cristo Gesù. Amen. Vogliamo ricantare: quale Re? Vogliamo farlo insieme.